Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Scuole senza quattrini, tanto che un preside di Milano per risparmiare si è rimboccato le maniche e si è messo a far supplenze. Scuole che invece vedono piovere soldi, ma da privati come la Microsoft, che ha fatto dell'Istituto Tecnico di Galatina in provincia di Lecce The School of the Future. Ne parleremo fra pochissimo, prima le news della settimana. Notizie fra i banchi. Troppi alunni stranieri. Alla scuola elementare Pisacane di Roma, fra Tor Pignattare e il Pigneto, su 180 allievi solo 15 sono italiani. In una classe addirittura c'è un solo bimbo italiano. Dopo la protesta dei genitori è stato raggiunto un accordo che prevede una più equa distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole elementari del sesto municipio di Roma. E sempre sui bimbi stranieri, ricorderete la querelle di cui abbiamo parlato anche in obbligo di frequenza su Milano, il comune aveva deciso di non ammettere figli di clandestini negli asili, ma aveva poi dovuto adeguarsi all'ordinanza di un giudice su sollecitazione di una mamma. Ora l'apertura dei figli degli irregolari è nero su bianco. Nel regolamento diffuso in questi giorni per le iscrizioni all'asilo si legge che possono iscriversi appunto, ma avranno la precedenza i bimbi con residenza. Con l'ultima infornata di docenti, 50.000 assunti con il piano dell'ex ministro dell'istruzione Fioroni, ha conquistato la cattedra un esercito di ultra quarantenni, lo dice un'indagine della Fondazione Agnelli. L'età media d'ingresso è di 41 anni e 2 mesi, c'è un buon 13,7% di neoassunti fra i 50 e i 60 anni e addirittura un 1,2% di over 60 che rischia di andare in pensione subito dopo essere entrati in ruolo. I neoassunti con meno di 30 anni sono appena il 2,5% del totale. Soldi che non ci sono, dicevamo, e i presidi si arrangiano per trovarne sia per i corsi di recupero che per le supplenze, anche con grande fantasia. Michele Delia è a capo del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano. Per quanto riguarda i corsi di recupero, noi abbiamo previsto la copertura tra il mese di febbraio e il mese di settembre 2009 di 600 ore a 50 euro ciascuna lorde. Quindi perché i soldi questo l'avete è quello che noi noi abbiamo solo dei soldi che sono residui dell'anno scorso. Di nuovo quest'anno non è arrivato nulla, per cui adesso abbiamo organizzato i corsi da qui a fine febbraio, da lunedì scorso sino a fine febbraio. Se poi arriveranno i finanziamenti da parte del ministero, noi potremo anche ampliare l'offerta, che è stata anche ridotta ad alcune discipline, latino, matematica, italiano, suddivise per biennio e triennio. Non tutte le materie sono comprese tra quelle che possono avere il corso di recupero. E quelle che non ce l'hanno, i ragazzini cosa devono fare? Si arrangiano? Vanno in italiano si dice si arrangiano. Si arrangiano. E d'altra parte o vendiamo fumo, e non è questo il nostro stile, oppure diciamo la verità. Comunque, bene o male, questi corsi di recupero possono partire, anzi sono partiti, no, perché raschiando un po', come si suol dire, il fondo del barile, ma qualche soldo l'ha trovato, un altro anno si vedrà, magari arriveranno altri fondi, si spera, e quindi si potrà andare avanti. Noi aspettiamo, se posso dire, arretrati per 75.000 euro dallo Stato. Certo, il timore è che passino in cavalleria e vengano azzerati. Lo Stato ogni tanto, il Tesoro questi scherzi ogni tanto li fa. Si dimentica. Non solo il ministro di adesso, ma anche quelli passati. Si dimentica azzerano, di rimborsare. Sì, azzerano. Non ti dicono più niente, vanno nei residui passivi e azzerano tutto. Sono manovre diaboliche, formalmente possibili, ma sostanzialmente sono un colpo alla... Se io lo facessi come privato cittadino mi arresterebbero, no? Senta, ma i soldi per pagare i supplenti ce l'ha? Sempre con i limiti del raschiare il barile, il fondo del barile con i resti degli scorsi anni. Però sulle supplenze il capitolo è ancora più doloroso. È vero che ogni tanto lei ci deve mettere una pezza e va in classe a fare lezioni? Sì, io lo faccio... L'ho sempre fatto per la verità e lo faccio volentieri. In questo momento lo faccio oltre che per piacere di stare con i ragazzi, spiegare un po' anche per dovere. Ma è evidente che una sola persona non può supplire l'organica copertura delle supplenze, che ripeto, almeno nella mia scuola sono molto limitate. Quindi però... ha anche questa fortuna, sennò chissà quante lezioni dovrebbe fare. Può darsi che mi trasformi da preside a preside supplente, dirigente supplente, però in questo caso non è un piacere, è una necessità. Almeno qualche classe che dovremmo mandare a casa perché ci manca la copertura. Lei si rimbocca le maniche, si prende un gessetto in mano e entra in classe. Sì, mi diverto anche rispetto a quello che mi fanno passare gli adulti, è una cosa piacevole. Soldi che non ci sono come a Milano, soldi che invece ci sono e come a Galatina. È stata inaugurata infatti in pompa magna settimana scorsa in provincia di Lecce la Scuola del Futuro, The School of the Future, un progetto davvero avveniristico. Molte cose cambieranno e ce ne parla Pietro Gallo, docente di laboratorio di informatica dell'Istituto Tecnico Commerciale per il Turismo La Porta. Cambierà che il computer entra di diritto nelle aule, non solo nei laboratori. La lavagna di Ardesia scompare e prenderà il suo posto, ha preso il suo posto dal 31, la lavagna interattiva multimediale. Il sito web non diventa più, non è più un sito informativo, ma è un sito basato su piattaforme di learning. I docenti registrano le singole lezioni e le pongono sul sito web in modo che lo studente assente o lo studente che desideri magari ripetere la lezione la può scaricare dal sito. Studenti, genitori e docenti interagiscono tra di loro attraverso il sito, attraverso forum moderati. I compiti a casa, quindi i compiti domestici, vengono somministrati anche via internet. Gli incontri, gli sportelli formativi non si fanno soltanto a scuola durante l'orario pomeridiano predisposto dal docente, ma si fa anche via webcam. Credo che stiamo mettendo molta carne a cuoio. Ecco, ma di tutto ciò che cosa è già partito? Insomma, in questi giorni i ragazzi stanno venendo a scuola e che cosa trovano già di diverso? Allora, innanzitutto partiamo dall'idea che tutto il personale docente della scuola è impegnato in una massiccia azione di formazione, poiché bisogna anche tenere presente che io magari insegno una materia tecnologica per cui sono per me è pane quotidiano. In particolare docenti che insegnano materie ad esempio umanistiche stanno procedendo con un'azione massiccia di professionalizzazione tecnologica. Insomma, questi insegnanti di italiano, comunque esatto, di materie letterarie devono un po' prendere confidenza con l'argomento, magari saranno più i ragazzi ad aggiornarli e a insegnare agli insegnanti come usare i computer e le tecnologie. Ma non tanto il computer quanto proprio la lavagna interattiva. Al momento, dal 31, diciamo, che è stata inaugurata la Scuola del Futuro, e proprio dall'altro ieri le lavagne interattive hanno incominciato ad essere utilizzate normalmente durante l'orario didattico. Gli studenti stanno incominciando a fare lezione in modo innovativo. Faccio un esempio, io stesso oggi ho chiesto loro di preparare per le volte successive delle slide già da presentare loro stessi tramite lavagna interattiva, perché cambia il modo anche di fare una semplice interrogazione. Impossibile sapere quanti soldi ci abbia messo la Microsoft, perché questo dato non viene fornito dall'azienda. Valeria De Rosa ha invece chiesto ad Alessandro Paolucci, direttore di visione education della Microsoft, perché è stato scelto proprio l'Istituto Tecnico di Galatina. Uno, ci siamo ingegnati qua, attraverso una serie di nostri partner, di conoscenze, di rapporti con l'ambito sia scolastico che universitario, per trovare un centro scolastico che comunque fosse pronto a recepire un certo tipo di aggiornamento tecnologico, chiamiamolo così, che noi volevamo proporre. In più la differenza è stata fatta anche da una conoscenza che abbiamo avuto con le persone, perché alla fine questi sono progetti che riguardano il Ministero, che riguardano aziende, che riguardano il mondo scolastico, però sono progetti fatti da persone, quindi conoscendoci abbiamo potuto intraprendere un certo tipo di lavoro che ci piace sottolineare, è stato importante ma è stato anche svolto in un tempo molto breve, perché dalla sua ideazione alla sua realizzazione sono intercorsi all'incirca 6 mesi, che secondo noi è un punto di partenza molto valido. Non ultimo, per quanto riguarda la scelta di un centro a Galatina, ritenevamo che fosse importante dare anche un segnale di supporto verso il mezzogiorno. Dottor Paolucci, mi dice se c'è un obiettivo, diciamo anche a più lungo termine, che vi siete posti per questo tipo di operazione? L'obiettivo è che questa copertura, a macchia di leopardo, ma macchie molto piccole per ora, diventi uno standard qualitativo che sia la base comune del mondo scolastico italiano, sia nell'ambito scolastico che in quello accademico. Giusto per fare un esempio, noi stiamo lavorando insieme al Ministero per ridurre quello che forse è il dato più preoccupante. L'Italia in questo momento all'interno della comunità europea è il paese che ha il minor numero di personal computer per studenti. In Italia ci sono 8 personal computer ogni 100 studenti, quando la media europea è abbondantemente sopra i 15. È proprio amore ormai fra cinema e scuola, un altro film francese, questa volta drammatico, presentato ieri al Festival di Berlino. La difficoltà di insegnare nell'ambiente violento della periferia parigina, la fragilità di un insegnante in un contesto molto delicato. Il cinema francese torna ad occuparsi di scuola, ce ne parla Marta Cagnola. Disintegrazione della società multirazziale, violenza di una generazione e di una scuola allo sbando. È il negativo di La classe, film francese vincitore della Palma d'Oro e candidato agli Oscar. Questo La journée de la jupe, la giornata della gonna, è drammatico, senza speranza. Qu'est-ce qui contient si importance? Vous en faites! Pour toi! Mais t'as trop pris la confiance, toi! Siamo in un liceo parigino di periferia. La professoressa Sonia Bergerac, interpretata da Isabella Gianni, trova una pistola nello zaino di uno studente. Fragile, depressa, si impadronisce dell'arma e prende in ostaggio la classe. Fuori polizia e media, dentro la tensione e la tragedia. Brigadier chef Labouret. Que se passe-t-il, madame? Est-ce qu'il s'agit d'une prise d'otage? Madame Bergerac, madame Bergerac! Bon, eh bien, je crois qu'on va pouvoir faire un cours, hein? Un cours sur Molière. Un bon cours. È la nuova generazione che chiede chi siamo, spiega Isabella Gianni. E il film racconta, non dà risposte. Ed è tutto per oggi, ci risentiamo sabato prossimo alle 12:45.